Conosciamo quel cuore, affievolito dal peso opprimente della gerla, dall'esercizio quotidiano dell'ascia, saturato di nostalgie lungo tutte le strade del mondo. Arrotini di stolvizza e di coritis. Mercanti di frutta di Oseacco hanno piantato le loro tende in tutte le capitali d'Europa. Muratori e imprenditori di San Giorgio e di Prato. Boscaioli di Gniva. Pastori di Uccea. Gente povera, è vero, ma forse perciò fedele a un modo di vivere che la differenzia da ogni altra della cerchia alpina. Valgano a conferma le danze resiane, apparentemente monotone nelle movenze e nella musica, affidata a due soli strumenti, un violino e un violoncello. I ballerini affrontati non si toccano mai, spontanei continuatori della czarda ungherese e delle danze della steppa. A segnare il tempo, i colpi di tacco dei suonatori, eccitanti al punto da creare una frenesia collettiva, su cui gli Odel mettono improvvise interpunzioni per allontanare ogni svenevolezza. Spesso il canto s'accompagna alla musica. Mio bel Rio Nero, uno dice, anche tu sei sempre verde. La tua corrente trasporta fogliame e cortecce, ma non il mio amore. E un altro, sfogo di emigranti e di coscritti in procinto di partire. Sarò triste quando partirò, non so quando tornerò, e la mia mamma piangerà. Ma non piangerà soltanto la mamma. C'è una canzone a ballo che della Val Resia esalta in lingua friulana l'anima profondamente italiana. Un monumento a Prato reca incisi i nomi di 160 valligiani caduti in tre guerre. Parole e musica di Arturo Zardini. Si intitola La Roseane, la Resiana. Protagonisti, nelle sequenze del coro, una biele frute e un alpino. Cornice, la bellezza de valade, cui país spogliat sul plan. Ho trovato una bella ragazza, sana e fatta bene, con la gonna corta, belle spalle, un bel seno. Con rispetto le do la mano, le domando dove va. Mi risponde: lei è friulano. Anch'io vengo da quelle parti. Dalla Russia l'antenato stabilitosi sotto il Canin. Il mio bene è soldato. È di Resia, un alpino. Che bellezza la vallata, con i paesi adagiati sul ripiano. Della mia valle sono innamorata. Sono di Resia. Siamo friulani. Il Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, la Val Resia, 27esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musiche di Arturo Zardini, musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione il coro Arturo Zardini di Pontebba, diretto dal maestro Gino Piemonte, e Montanari della Val Resia.